later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il sogno è la vera sostanza della realtà, Kappa e Drago coltivano sogni di gloria. Ma certo, Drago, è così. Io il sospetto ce l'ho da sempre, figurati. Non me l'hai mai detto. Ma sì, sicuramente te l'ho detto, solo che tu non sei sempre lì che mi ascolti. Beh, è sempre meglio che non essere mai lì che ti ascolto, no? Drago, secondo me siamo i protagonisti di un reality show del quale siamo all'oscuro, capito? Tipo Truman Show, capito? Ho capito. Gli albori del reality show. Appunto, siamo solo che adesso noi siamo furbi, perché le abbiamo già vissute queste cose, ce ne siamo accorti e adesso le cose cambiano. Vabbè, ma c'è, scusa, secondo te noi siamo stati attirati con inganno qui nella fabbrica di polli apposta per essere filmati? Mi sembra che non ci siano dubbi, scusa. Quelle telecamere secondo te a cosa servono? Beh, servono a monitorare le varie zone della fabbrica. Vabbè, certo, ufficialmente serviranno a quello, ma poi tu che ne sai, scusa? Te lo dico io, Drago, quelle camere filmano tutto e poi qualcuno in sala montaggio lavora di editing. Se avessero mai provato a farlo davvero un programma con me e te nella fabbrica che parliamo tra noi o col pollo in sbattimento, avrebbe chiuso dopo la prima settimana. Invece a me sembra di essere qui da un pezzo, altro che una settimana, dai. Pensaci, Drago, qualche generoso filantropo lo sta facendo davvero. Un programma con me e te nella fabbrica che parliamo tra di noi e poi col pollo. Sì, Valzania. Sì, solo che non lo sappiamo noi, capito? O perlomeno nessuno ce l'ha mai detto. Vabbè, ma scusa, Kappa, i microfoni dove sono? Vabbè, ma i microfoni sono dappertutto, ma Drago. Ma come dappertutto? Ma dai. Sì, microspie, cimici, talpe, siamo mappati, Drago. Ma come mappati? Ma sì, ci fanno anche i raggi X. Senza che, ma sì, senza che ce ne accorgiamo, ci fanno la TAC, l'esame del sangue, del DNA. Sì, Kappa, non esagerare, stai entrando nel delirio paranoide alla Don Derillo che tanto preoccupa gli psicologi moderni, dai. Drago, sono ansioso. Questo è un fottutissimo e dannatissimo caso di complottismo. Presto! Tenente Drago! Prenda fiato e non mi schianti qui davanti! Dobbiamo subito sabotare la messa in onda del reality show che ci vede protagonisti! Ma comandante Kappa, le telecamere sono troppo in alto per spaccarle con un bastone! Ci vuole una pertica! Ma dobbiamo trovare le telecamere nascoste! Quelle sono solo di facciata! Ma allora è un bel casino! Certo! Quando mai le cose non sono un casino? Quando mai tutto fila liscio come l'olio? Se tutto andasse bene senza intoppi, secondo lei, Tenente Drago! Lei, che cosa ci faremmo io e lei, Tenente Drago? Nei panni del comandante Kappa e del Tenente Drago! Presto! La smetta di fare... e si dia da fare a disinfestare la fabbrica! Ma non ho il disinfettante, comandante Kappa! Tenente Drago! 1787, und es ist Nacht. Ich habe kein Geld und fühle mich schwach. Zum Glück haben sie mir eine neue Komposition aufgetragen. Ich komponiere sie heute Nacht und morgen früh ist erledigt. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Symphonie. Ah, das ist gut. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Symphonie. Ach du Scheiße, andere Melodie. Und die Matratze. Und das Beste, was es gibt. Ja, das ist gut. Fertig. La fabbrica di polli. Non ho mai capito, Tarek. Qui c'è la voce che stiano facendo un reality show, qui in fabbrica. Certo. Dicono tutti che ci siano dei microfoni e telecamere nascoste dappertutto. Dappertutto? Sì, ma guarda che non è mica una bella cosa, eh. No, perché se le telecamere sono proprio dappertutto, a me girano i maroni, No, perché io, tu lo sai, io vengo dagli anni 70. E lì tutte le forme di controllo erano considerate fasciste. E quindi a me, se mi spiano, io vado in sbattimento. È per forza di me, Perché se io sento puzza di controllo sociale, mi va sangue la testa, E poi non capisco più niente. E allora devo prendere la paroxetina. Doppia dose, tripla anche. E poi a volte la prendo tutta, Eh sì, perché io resto a guardare le pastiglie, no? Il suo pagliericcio, le conto. 1, 5, 6, 7 e dico, cosa faccio? Le prendo tutte? Ma sì, le prendo tutte. E le prendo. E poi però succedono cose strane. Perché poi dicono, le controindicazioni, no? Che la paroxetina può causare allucinazioni. Trip! Ma come parli che non capisco niente? Trip! E trip, sì, ma qui più che trip è la sindrome serotoninogenica. Sindrome serotoninogenica. Ma tu lo sai cos'è? Ma cosa sto a chiederti? È che praticamente, no? Ti sembra di avere le zampe lunghe lunghe, no? Come quello dei Fantastici 4. Hai presente, Tarek? Con il fumetto. Lunghe lunghe, no? Che sbatti contro le cose, no? Allora hai sempre paura di fare dei danni, Camminando in giro. Allora sai cosa faccio io? Io mi corico nel pagliericcio, no? E aspetto lì di smaltire. È solo che se vai in overdose di paroxetina, non è che muori subito, E neanche dopo. Solo che la paroxetina ti va in accumulo, no? Allora ti biocchi. E magari poi dormi per 2 o 3 giorni, È un pesolino! Sì, ma un pesolino di 2 o 3 giorni, Solo che poi quando ti risvegli, non sei riposato come quando ti risvegli normalmente, E no. È perché Tarek, se c'è una cosa che tu devi imparare bene, è che per stare bene con le pastiglie e le droghe, poi devi sempre pagare pegno, Capito? Perché sembra che ti facciano bene, sei contento e va tutto bene. Ecco, lì è il momento di preoccuparsi. Sì, perché il dopo sarà tremendo, Sì. E se no che droghe sarebbero, scusa, Allora, io poi mi sveglio con la bocca tutta impastata, la testa che mi fa male, pesante, e allora mi ci vogliono 5 caffè per aprire gli occhi. È un disastro, Tarek, Ma beato te che sei giovane e non capisci niente, Non capisco niente. Bravo, Tarek. Tu nel reale ti fai la parte del buffone, Quello che sta simpatico a tutti. Contento? Minus Abis. Sì, Tarek, bravo. MH, le tue iniziali, Minus Abis. Minus Abis. La fabbrica di polli. Dobbiamo scoprire dove si nascondono gli autori, è lì la chiave. Ma quali autori, capo? Tu stai farneticando, guarda che. Gli autori del reality. Ma non ce ne sono. La cosa più importante di un reality sono gli autori. Stanno quindi lì delle ore a discutere su dei dettagli inutili. La televisione, grande. Sì, ci sono gli autori. Sì, ho capito, ci sono gli autori, ma non ci dicono niente. Quindi che cosa stanno facendo in realtà? Non lo so. Se ci sono gli autori dovrebbero comunicare con noi che siamo gli attori. No, perché noi siamo attori inconsapevoli, Drago. E allora gli autori a che cosa servono? A niente. Ah. Ma è la televisione, te l'ho spiegato. Ah. Fanno la scaletta. Ah, ho capito. Però, K, smettila, su, dai. Qui non c'è nessun reality show. Qui non c'è show, c'è soltanto reality. Dreams are my reality. Ecco. Oh. Io lo sapevo. A lui gli dici canta. Ma avanti anche mezz'ora. Si tranquillizza. Bravo, K. Bravo, canta che ti passa. Che cosa succederà adesso? L'ipotesi inquietante di un Truman Show virato verso il settore aviario. È davvero così bislacca come Drago tende a credere? Oppure K ha colto nel segno? Vi lasciamo in questa situazione di dubbio fino a domani, quando potrete sintonizzarvi a mezzanotte su Radio 3 per seguire il prossimo ardimentoso allestimento de... La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Barlumen.